capo. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. La città è in ginocchio perché la città ha fatto fronte solo con le proprie risorse ieri. Siamo riusciti a far sì che non ci fosse un blackout generale, però adesso Vicenza ha bisogno dello Stato e quindi ho chiesto l'intervento dell'esercito. Vicenza è sotto l'acqua. Il sindaco della città, Achille Vairati, martedì 2 novembre parla, racconta a Radio 24 la situazione che sta vivendo la città veneta. Un saluto a tutti, buongiorno da Gigi Donelli, da Pietro Lacorte questa mattina in regia per questo consueto appuntamento con Punto a Capo. Eccoci qua dunque per cercare di raccogliere, raccontare quella settimana che si va concludendo, è la 44esima settimana dell'anno, una settimana che è iniziata in maniera molto forte su alcuni temi importanti, temi che poi si sono sviluppati appunto nel corso dei giorni. Sicuramente quello dell'emergenza, l'emergenza meteo che si è trasformato in un disastro in alcune zone d'Italia è uno dei grandi temi. Poi c'è naturalmente l'affare di Ruby, quindi del coinvolgimento della presidenza del Consiglio nella vicenda appunto che avrete letto, sentito e su cui naturalmente torneremo. E c'è stata anche una settimana di grandi elezioni, in particolare quelle negli Stati Uniti. Mi riferisco naturalmente alle elezioni di midterm che vi abbiamo ampiamente raccontato e sulle quali tra poco torneremo. Insomma, ancora un benvenuto da parte nostra. Io direi di ripartire proprio da Vicenza, dalle sue voci, dallo spavento, dalla preoccupazione, dalle reazioni che la città ha poi saputo mettere in campo. Io mi sono salvata perché sono 24 ore che non ho mollato, perché avevo due pompe. Perché è stata avvertita? Da un vicino, non sono stata allertata da nessuna protezione civile. 30-40 mila euro di danni come l'altra volta. L'altra volta mi hanno risarcito un 30%. Questa volta non lo so cosa faranno. Ci troviamo alle casette dell'ex Cotorossi, una delle zone più colpite di Vicenza. Qui c'è Luca Poncato, avvocato, stava per inaugurare uno studio nuovo di zecca. Nuovo di zecca, ci siamo trasferiti qua circa 6 mesi fa, avevamo appena finito di ristrutturare l'ufficio. Ufficio nuovo e abbiamo perso tutto. Danni? Danni, distrutto tutto, dall'archivio alle pratiche dei clienti, e abbiamo speso circa gagliardi 100.000 euro e tutto da rifare e bisogna ripagare tutto. Punto e a capo. A differenza del 66, quando c'è stato l'altra forte alluvione, in questi anni ovviamente il territorio ha pagato in più il prezzo della cementificazione, sia come costruzione di nuove case che di capannoni industriali che di strade. È stato in un certo senso il prezzo del boom del nord-est di questi anni? Sì, però guardi che l'evento è stato eccezionale. Tutta la roba che galleggia dentro in casa e l'ho alzata a un metro dal pavimento, è frigorifero, la stufa a pellet che mi ho comprato nuova. In poco tempo l'acqua è cresciuta fino ad arrivare in cantina a circa 1,40 m. È a casa mia, come dico, è in cantina, ma lì purtroppo c'è la lavatrice e il bruciatore del riscaldamento. Io ho la cantina sotto acqua, ma c'è la gente che è tutta quanta, quelle abitative sono tutte quante allagate. Aspettiamo che l'acqua vada via. In Veneto si contano dunque i danni. È polemica sulla manutenzione idrogeologica che deve fare i conti con i fondi tagliati. Maria Luisa Pezzali ne ha parlato con Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, l'associazione che raggruppa i consorzi di bonifica del Veneto occupati nella ripulitura e nella manutenzione dei fiumi minori e dei canali. Noi ci occupiamo proprio della rete idrografica cosiddetta minore, dei canali di scolo, quelli che sono attorno ai centri abitati, quelli che nelle campagne portano l'acqua per l'irrigazione e contribuiscono a portare via l'acqua nei momenti di piogge eccessive. Noi continuiamo a sostenere l'importanza di investire sulla difesa idrogeologica del territorio. Il Veneto è un territorio fragilissimo dal punto di vista idrogeologico, circa un terzo del territorio è sotto il livello del mare. Recentemente i fondi per la manutenzione ordinaria di fiumi e canali sono stati tagliati, sono stati tolti 15 dei 100 milioni solitamente impegnati. Questi tagli sicuramente influiranno ed è per quello che nel piano di difesa idrogeologica che abbiamo lanciato come associazione nazionale si chiede appunto che questi soldi vengano ripristinati. Non c'è nulla che può tenere neanche il patto di stabilità rispetto alla difesa idrogeologica di un territorio e a rischio di danni di alluvioni o di dissesto del territorio come quelli che stiamo vedendo. Non solo Vicenza, naturalmente, ma anche la Calabria, la Liguria tra le regioni più colpite dalla violenza dei fenomeni meteorologici. In Toscana si parla addirittura di vittime annunciate. Le oltre 100 frane che hanno sconvolto le colline del Candia e alcune frazioni del comune di Massa potrebbero essere una tragedia annunciata, almeno secondo alcune testimonianze di abitanti della zona, che molto probabilmente saranno raccolte anche dalla procura, che ha aperto un'inchiesta per chiarire eventuali responsabilità nella morte di 3 persone. Nera Ricci, insegnante 39enne di scuola materna, il figlio Mattia di 2 anni e Aldo Manfredi, camionista 48enne, sono stati travolti da una valanga di detriti e fango che domenica sera si è abbattuta sulle loro abitazioni nelle frazioni di Lavacchio e Mirteto. I soccorsi hanno recuperato i loro corpi soltanto dopo diverse ore. Ma tutte le zone collinari del comune di Massa sono interessate da frane, quindi pericolose a causa delle forti piogge che si sono abbattute da sabato su tutta la provincia, ma anche in Lucca e Sia e nel Pisano. Numerose le famiglie evacuate dalle proprie abitazioni, mentre un altro pezzo di collina si è staccato anche in località Ponte di Legno, abbattendosi sulla strada provinciale 74 e bloccandola. Ubaldo Cianciulli, GR24, Il Sole 24 Ore, Firenze. Questo per quanto riguarda la cronaca che vi abbiamo raccontato, come avete sentito, soprattutto dal Veneto e dalla Toscana. Ma c'è un quadro più ampio, anche impressionante, che emerge. Pensate, sono 6 milioni gli italiani che vivono in territori ad alto rischio idrogeologico. Laura Bettini ne ha parlato con Antonio Di Paola, presidente del Consiglio dei Geologi Italiani. Tutte le regioni italiane sono esposte a questo rischio e questo per una ragione intrinseca assolutamente ineludibile, data dalla conformazione e dalle caratteristiche geologiche che compongono il nostro territorio. Su cui poi si innestano però altri due problemi, che sono quelli della cementificazione e della mancata manutenzione, no? Certamente, questi sono i due ulteriori parametri che poi trasformano questa pericolosità diffusa in rischio autentico. Il presidente della Regione Toscana chiede un piano nazionale di finanziamenti e prevenzione. Perché non c'è un piano? Ormai diciamo che la mappatura delle aree a rischio in Italia è un dato di fatto. Questi piani esistono, queste mappature esistono per il rischio sismico e per il rischio da frana. Mancano le risorse, il recente stanziamento di 1.450 milioni certamente va a coprire qualche punto isolato dei tanti a rischio in Italia, ma è stato valutato in 40 miliardi di euro il costo per risanare almeno le aree a maggior rischio. Bisognerebbe creare quindi delle priorità. Punto e a capo. Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Sparata macista o annuncio della campagna elettorale mentre a sinistra cresce la figura di Nichi Vendola, omosessuale dichiarato, per la leadership. Questo lo vedremo nei giorni a venire. Le ipotesi, d'altra parte, non sono del tutto incompatibili. Naturalmente sull'onda di questa inchiesta e poi di questa battuta del Presidente del Consiglio, fatta qui a Milano, di fatto si è dispiegata la settimana. Al microfono di Alessandro Milan è stato ripreso questo argomento, ospite Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Senta, lunedì apre la conferenza, seconda conferenza nazionale sulla famiglia, c'è qualche polemica oggi sui giornali per la presenza di Silvio Berlusconi, che qualcuno giudica inopportuna. Le faccio questa domanda, e secondo lei è compatibile la presenza di Berlusconi con quello che leggiamo sui giornali, visto che si parla di famiglia ovviamente? La presenza del Presidente del Consiglio è dovuta, è un atto di rispetto dovuto al lavoro dell'Osservatorio Nazionale della Famiglia, del Comitato Scientifico, di tutti coloro che per mesi hanno lavorato duramente per mettere a fuoco tutti i temi del futuro piano per la famiglia che verrà discusso e approfondito alla conferenza, dove parleranno anche i ministri, dove tutto il mondo dell'associazionismo familiare farà il punto su tutta una serie di questioni vere, importanti, determinanti per il nostro futuro, la denatalità l'invecchiamento della popolazione, il problema dell'integrazione, di un'immigrazione che fa fatica a integrarsi se di qui a pochi decenni non ci saranno più gli italiani, la disgregazione sociale, i problemi economici delle famiglie, insomma questioni che toccano. Ma questioni certamente decisive. Però ho sentito il presidente del forum associazione familiari, Francesco Belletti, ha detto siamo anche imbarazzati che la presenza di Berlusconi possa distogliere dall'attenzione vera e parlare d'altro. Belletti ha detto una cosa che io ho pubblicamente condiviso, poiché sono temi importantissimi, ecco, e poiché c'è già chi, tipo i radicali, tipo l'Arcigay, che dice verremo là non a dare un nostro contributo ma a fare polemica, ma dal loro punto di vista, perché il matrimonio per gli omosessuali, perché la fecondazione, la legge da cancellare per permettere di comprare i fattori della produzione e il problema del diritto alla vita, eccetera, eccetera. E poiché si fa una grande fatica ad attirare l'attenzione dei media sui problemi veri, la preoccupazione di Belletti è che i media si interessano solo alle cose di cui si sono preoccupati di questi giorni e non però invece che diano un giusto rilievo a queste questioni serie. Facciamo però un passo indietro. Tutta questa polemica, questo dibattito nasce da un'inchiesta sul giro di prostituzione di lusso. Allora sentiamo il punto che fa la nostra redazione. Tunica gialla, carnagione scura, sguardo deciso. Eccola come si mostra su Facebook l'ultima donna che fa tremare la maggioranza. Nadia Macri, 28 anni, professione escort. È lei che ai PM di Palermo ha raccontato di aver avuto due incontri col premier, pagati ogni volta 5.000 euro. Incontri tra 2009 e 2010 a Milano e Arcore, ma i racconti sarebbero molto sfilacciati. A Silvio Berlusconi la Macri riferisce di essere arrivata una volta attraverso Lele Mora ed Emilio Fede, un'altra mediante un politico emiliano. I commenti che al premier dedica su Facebook sono però tutt'altro che lusinghieri. Da Palermo sia i verbali della Macri che quelli di Perla Genovesi, ex assistente parlamentare che ha riferito le confidenze della escort, saranno trasmessi a Milano, dove invece l'inchiesta sul caso Ruby arriva ad un primo risultato. Le procedure di identificazione e di affido sono state correttamente eseguite, parola del procuratore capo Bruti Liberati, che fa sapere che non sono previsti ulteriori accertamenti sul punto. Un chiarimento sul comportamento della questura accolto con soddisfazione dal ministro dell'Interno. Restano comunque tanti aspetti da definire sul giro di escort frequentato da Ruby, come sulle sue contraddizioni. Così, se a verbale dice di aver visto più volte la Minetti, alla stampa racconta che non la conosceva. I PM mi hanno interrogato 23 volte, annuncia la 18enne, ma in realtà sono state 3. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Rapporti personali, numeri di telefono, come si chiama letteralmente, nel senso di come lo si chiama al telefono il presidente del Consiglio, come si accede alla sua persona. Giuseppe Cruciani ne ha parlato alla Zanzara con l'onorevole Carlucci. Allora, senta, onorevole Carlucci, lei quando vuole comunicare con Berlusconi, come fa? Allora, ci sono vari modi. Innanzitutto c'è la batteria del Viminale o il centralino di Palazzo Chigi, che è un numero che hanno tutti i deputati, tutti del governo. Sì, c'è il centralino di Palazzo Chigi, in realtà ce l'abbiamo anche pure anche la batteria del Viminale. Anche la batteria del Viminale. Nel senso che c'è un centralino appunto del Ministero degli Interni, per cui tu dici chi sei. Sì, e certo. Metti in contatto con il Presidente. Io ho usato spessissimo questo mezzo. Per comunicare col Presidente Berlusconi? Comunicare col presidente Berlusconi. E poi chi le passano? Il capo scorta, Bonaiuti, chi le passano? Per no, spesso direttamente lui. No, così al volo. Non l'ho mai visto. Sì, oppure la segreteria. C'è una serie di segretari che stanno accanto a lui, poi dipende dove si trova in quel momento, però insomma. Cioè, dalla batteria lo avvertono, c'è l'onorevole Carlucci che la cerca. Qualcuno parla con lei. Così. Cioè, lei non ce l'ha un numero particolare che le mette in collegamento direttamente con il capo scorta? Non Ma ce l'ha. Io ho i numeri comunque sì, della sua segreteria particolare, della sua scorta, ho tutti questi numeri, certo. Se non, però è più facile passare per i centralini che abbiamo detto certo. prima. Però lei è un deputato del PDL. Insomma, del PDL ha una figura istituzionale, una persona che conosce Berlusconi da un sacco di tempo e dunque è abbastanza logico che possa avere, diciamo, un telefono che non sia quello della appunto della batteria oppure del Viminale o di altri numeri. Qui sembra che insomma ci sia una modella brasiliana che abbia attivato Berlusconi la sera famosa di maggio, quando poi è successo tutta l'affare di Ruby. Lei ci crede a questa cosa? Ma perché no? Io conosco Berlusconi da tanto tempo. Sì. E dà il numero così facilmente? No, è una persona gentile, educata, gioviale, molto simpatico. Ha tanti conoscenti, e i suoi conoscenti spesso sono accompagnati da bellissime donne, quindi non trovo strano che magari questa modella fosse la fidanzata di un suo conoscente, di un suo amico, e che quindi in quel modo sia potuta venire a conoscenza del numero. Punto e a capo. Ed eccoci arrivati a venerdì 5 novembre, dunque. Ieri Consiglio dei Ministri, novità in vista anche sul fronte della prostituzione. Sentiamo. Dalla violenza negli stadi alla prostituzione, dalla carta d'identità elettronica al wifi, diverse le misure che trovano spazio nel pacchetto sicurezza messo a punto dal ministro dell'Interno Maroni, un piano composto da un decreto legge con misure urgenti e da un DDL. Tra le novità più attese, il libero accesso alla rete senza fili. Dal 1 di gennaio gli utenti saranno liberi di collegarsi ai sistemi wifi senza quelle restrizioni introdotte 5 anni fa e che oggi sono ampiamente superate dall'evoluzione tecnologica. Il piano prevede poi l'allontanamento coatto dei comunitari non in regola e una stretta contro la violenza negli stadi, con il ripristino dell'arresto in flagranza differita per gli ultra responsabili di incidenti, il potenziamento dell'agenzia per i beni confiscati alle mafie e un ampio capitolo sulla sicurezza urbana con un giro di vite contro prostituzione e accattonaggio. Mentre arriva la carta d'identità elettronica obbligatoria per tutti, anche per i neonati, ponendo così fine, dice Maroni, ad una sperimentazione che andava avanti da 10 anni. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Foglio di via dunque per chi esercita la prostituzione su strada violando le ordinanze dei sindaci in materia. Insomma, non c'è che dire, siamo il paese della prostituzione a doppia velocità. Punto e a capo. Ed eccoci a quello che è senza dubbio uno dei grandi temi di questa settimana. La scelta che l'elettorato americano ha fatto sulla politica di Obama, il presidente eletto 2 anni fa, elezioni di midterm. Tecnicamente si tratta del rinnovo della House of Representatives, quindi della Camera, e anche di una grande parte del Senato americano. Per come è stato vissuto, per come è stato letto, di fatto un grande referendum sulla politica di Obama. Come vi ho detto in apertura, l'abbiamo raccontato anche con i nostri inviati, abbiamo cercato di dare il quadro di questa complessità che di fatto si distribuisce sul grande territorio americano. Una sintesi ce la offre come sempre il nostro Mario Platero, che parte dunque da New York per compiere un percorso attraverso l'elezione di midterm. Gli equilibri a Washington cambiano. Barack Obama ha perso il referendum sul suo operato. By any means, in Washington state right now, Patty Murray, the incumbent Democrat with 52%, Dina Rossi, the Republican challenger with 46%. These are raw exit poll data. I want to be precise. It's not necessarily a final numbers, but it's showing you a trend of what's going on. Una notte che è cominciata con gli exit polls un po' dappertutto. Qui avete ascoltato un exit poll del Washington State, ma più i risultati arrivavano, risultati che anticipavano poi il conteggio finale, più ci si rendeva conto che i repubblicani, il giovane movimento dei Tea Parties, questi patrioti, difensori della Costituzione, di quello spirito americano che Barack Obama e i democratici, secondo la loro campagna elettorale, avrebbero distrutto in 2 anni di governo statalista, dicevo, questi nuovi volti dei repubblicani hanno vinto, hanno riconquistato ieri notte, dopo una delle più polarizzanti elezioni degli ultimi anni, il controllo della Camera. Vi dicevo che il controllo democratico del Senato è ridimensionato, però è salvo. Harry Reid, l'anziano presidente della maggioranza, ce l'ha fatta contro Sharon Angle in una delle corse chiave che vedeva schierati da una parte il vecchio establishment e dall'altra un'eroina dei Tea Parties. Ci sono stati dunque dei democratici che hanno fatto bene, che sono sopravvissuti, ma se dovessimo vedere una cartina geografica dell'America sulle elezioni, soprattutto alla Camera, ci sarebbe soprattutto il colore rosso, il colore cioè dei repubblicani. The Republicans are largely supportive of much of the Tea Party agenda, especially when it comes to cutting spending. Avete sentito David Gergen, uno dei più grandi commentatori politici americani. Il suo focus è sui Tea Parties, sul fatto che il Partito Repubblicano dovrà adattarsi a questa nuova realtà che ha portato alla vittoria Marco Rubio. Lo abbiamo intervistato qui ai microfoni di America 24. Marco Rubio, un giovanissimo contendente per il Senato della Florida, ebbene ha vinto contro Crist, che era il governatore dello Stato. E poi il controverso Rand Paul del Kentucky. Sono due candidati celebri, sono matricole dei Tea Parties, la vera forza nuova di queste elezioni del 2010, come dice David Gergen. In Pennsylvania una corsa chiave, ha vinto Tom Tooney contro Joe Sesta, che era un democratico importante, è stato sconfitto. In Wisconsin è caduto un altro dei grandi senatori democratici, Rance Feingold contro Ron Johnson. John Brewer, forse la ricorderete, è la governatrice, il governatore dell'Arizona, un personaggio che divenne famoso per una legge molto discussa, quella che cercava di punire, penalizzare gli immigrati illegali arrestandoli per poi rimandarli a casa. Anche lei ha vinto, è stata confermata. John McCain è stato rieletto sempre in Arizona. Dunque un risultato che mette al centro di questa nuova equazione politica i Tea Parties, non soltanto al Senato ma anche in moltissime corse alla Camera. Si calcola che almeno un centinaio di candidati abbiano corso sotto la bandiera dei Tea Parties e dunque molti di loro hanno sicuramente vinto. Nuove sfide dunque che si aprono in una capitale che vede il potere politico ridisegnato. I spent my whole life chasing the American dream. John Boehner, dunque il nuovo capo della maggioranza repubblicana alla Camera, prenderà il posto di Nancy Pelosi alla Camera. Era sua la voce rotta dall'emozione di un uomo che davvero di strada ne ha fatta moltissimo. Pensate, viene dall'Ohio, è cresciuto in una famiglia in cui erano in 12 solo i fratelli, una famiglia di quella povertà bianca che abbiamo in qualche modo imparato a conoscere anche attraverso la letteratura, i film americani. Ha ricordato questo suo percorso, ha ricordato di aver fatto i lavori più umili per pagarsi le tasse universitarie. Insomma, è arrivato a questo posto, a questo posto che è importante, strategico, perché non dimentichiamo se è lui a fissare l'agenda delle discussioni parlamentari e dei voti. Qual è il suo messaggio politico? Il messaggio è stato piuttosto chiaro. C'è stato un cambiamento di rotta, ha detto, mi domando se il presidente sarà in grado di ascoltarlo. In quel caso siamo pronti a lavorare insieme. Insomma, ancora una volta, meno Washington a Washington. Quello che gli americani, i giornali, soprattutto al di fuori delle città principali, diciamo dei circoli intellettuali, vanno chiedendo da tempo. Ancora la sconfitta elettorale al midterm per Barack Obama ed ora ci si mette anche la stampa, la prestigiosa rivista americana Forbes per la precisione. Secondo la classifica 2010 degli uomini più potenti del pianeta, Obama deve cedere lo scranno alla presidente cinese Hu Jintao e figura quest'anno solo secondo, seguito dal re dell'Arabia Saudita. 14° posto per il presidente italiano Berlusconi, 74° tra gli uomini più ricchi al mondo. Dite quel che volete del colorito primo ministro italiano, scrive la rivista Forbes, ma è sempre lui a condurre il gioco. Chi altro figura nella lista? Al 4° posto, l'amico del nostro premier, il russo Vladimir Putin, davanti a Papa Benedetto XVI e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. 7° il nuovo primo ministro britannico David Cameron, solo 19° Sarkozy, mentre in classifica figura anche una insolita new entry, Osama Bin Laden, 57°, 11 posizioni in più del fanalino di coda, il fondatore del sito Wikileaks, Julian Assange. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Decreto legge rifiuti ieri in Consiglio dei Ministri. Prevede la soppressione di alcuni impianti previsti nella legge precedente come siti di conferimento e l'accelerazione delle procedure per la costruzione dei nuovi termovalorizzatori. Sui termovalorizzatori, Berlusconi ha ribadito che per il successo del piano adottato è necessario che vengano realizzati gli impianti. Con 3 termovalorizzatori, assicura il Premier, dovremmo aver esaurito tutte le richieste per una normale raccolta dei rifiuti, ma serve uno sforzo dei cittadini per aumentare la differenziata, che a Napoli è ancora al 15%, mentre a Portici, quindi a due passi, è già al 75%. Buone notizie invece dalla cronaca sul fronte dell'accordo raggiunto dai pastori sardi, che dopo mesi di protesta hanno ottenuto un impegno da parte del governo attraverso la regione. Gli allevatori sardi, esasperati per i costi di produzione sempre più alti e i ricavi sempre più bassi, 5 mesi fa sono scesi in campo chiedendo interventi di sostegno. Il movimento dei pastori ha girato l'isola intera, bloccato porti, aeroporti, strade, gridato al mondo intero le ragioni della protesta. Nella manifestazione davanti al Palazzo del Consiglio regionale la tensione piuttosto alta aveva persino scatenato una vera e propria guerriglia urbana. Ora, dopo una lunga trattativa, la svolta. È stato sottoscritto un accordo tra il movimento dei pastori sardi e la regione. Un riscatto storico per il leader Felice Floris. In sostanza, il costo del latte ora andrà a definire il prezzo finale del formaggio, un'inversione di rotta rispetto a quanto avveniva sino ad oggi, determinante per il raggiungimento dell'intesa che punta al rilancio del mondo agricolo. In Sardegna il lavoro di 40.000 persone ruota intorno alle 18.000 aziende che operano nel settore dell'allevamento, senza contare l'indotto. Anche se il bestiame vive sempre allo stato brado, i pastori si sono attrezzati e modernizzati, creando un'economia diffusa sull'isola. La crisi economica però ha ridotto fortemente i consumi, per cui il formaggio invenduto giace nei magazzini. Il fenomeno a sua volta ha fatto crollare il prezzo del latte e messo in ginocchio gli allevatori sardi. Con gli aiuti temporanei contenuti nel nuovo accordo faranno fronte alla crisi, ma continueranno a vigilare sulle forme di attuazione dell'intesa. Valchiria Baldinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari. Punto e a capo. E ora la pagina dell'economia. Partiamo dalla Fiat, il gruppo che comprende Fiat, Alfa e Lancia, segnerà ad ottobre un calo delle vendite del 39%, ben oltre il meno 29% dell'intero mercato dell'auto. Lo prevede Federauto, che raggruppa i concessionari italiani. I motivi li ha spiegati Gianprimo Quagliano del Centro Studi Promotor al microfono di Sebastiano Barisoni. Fiat aveva avuto grandi benefici dagli incentivi, perché gli incentivi erano incentivi ecologici e quindi favorivano soprattutto i modelli ecologici, e Fiat nella sua gamma ha molti modelli ecologici, soprattutto quelli a metano, ma anche altre auto. C'è anche l'assenza di modelli nuovi, ma questa è una politica che Fiat sta facendo, perché ritiene di non giocare le sue carte migliori, che ha probabilmente nel cassetto, in una situazione di mercato così difficile. Altri seguono una politica diversa, questa è la politica di Fiat. Si può discuterne, ma questa è. Nessuna preferenza a Cisle e a Will, e massima disponibilità ad incontrare il nuovo segretario della CGIL, Susanna Camusso, non appena lei lo chiederà. Categorico l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, ieri a Mirandola per ritirare un premio. La prima volta di Susanna al comando, la prima volta della CGIL con un segretario donna. La definiscono una lady di ferro, la Camusso. Non per tutti, evidentemente. Se il collega Cremaschi, presidente del comitato centrale FIOM, ha ribadito il suo no perché è troppo moderata. Eppure Susanna viene proprio da lì, da quella piccola spina nel fianco della segreteria nazionale che è la Federazione dei Metalmeccanici. La successione è stata preparata per tempo e con cura. Epifani lascia un sindacato in salute, con 6 milioni di iscritti, ma in acque agitate. Recuperare il dialogo su alcuni tavoli con l'esecutivo, i posti di lavoro che continuano ad andare in fumo e i contratti nazionali derogati. Moderata o no, la Camusso è donna pratica e non gira intorno alle proposte, sulla riforma fiscale, per esempio. L'annuncio che ci sarebbe stata una riforma, che sarebbero state presentate delle proposte, l'abbiamo sentito qualche decina di volte. Bisognerebbe invece passare a una stagione in cui si decide di farlo e si decide qual è il soggetto, perché non si può contemporaneamente dire che non ci sono risorse e dire che si affrontano tutti i temi. Pratica e concreta, quello che si può fare si fa, quello che no, no. L'avrà imparato in barca a vela Susanna, una passione che risale a tempi antichi. Sulla strada della segreteria anche lo strappo con Cisle e Will. Il ministro Sacconi si augura che lei possa ricucire laddove Epifani ha fallito, e lei, sigaretta fra le dita, su cui spunta un anello di fattezze orientali risponde. Lui la smetta di dividerli. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Il raffreddore sconfitto per sempre. Non sarebbe male, non è vero? Soprattutto, come dire, pensato di questi tempi, in questo inoltrato autunno, in cui naturalmente i raffreddori arrivano con più frequenza. Bene, la promessa emerge da una ricerca portata avanti dall'Università di Cambridge. Nicoletta Carbone ce la racconta ad Essere Benessere parlandone con il dottor Giovanni Rezza, che è il direttore malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Gli anticorpi, diciamo che aspettano e aggrediscono i virus al di fuori delle cellule. Questi ricercatori inglesi invece avrebbero identificato nell'infezione appunto da virus del raffreddore l'ingresso degli anticorpi all'interno delle cellule e il quale ingresso all'interno delle cellule sarebbe in grado di innescare dopo un meccanismo virtuoso attraverso cui l'organismo stesso riuscirebbe a eliminare rapidamente il virus del raffreddore. Però ci vuole ancora tempo, professore. È chiaro che quando ci sono queste notizie, dopo queste notizie fanno clamore, no? Tutti quanti pensano che è bello, abbiamo scoperto un meccanismo nuovo, riusciremo a combattere immediatamente il raffreddore e magari oltre al raffreddore tanti altri brutti virus, o virus peggiori del raffreddore. Certo. In verità, passare da una bella scoperta, diciamo, della ricerca di base, la ricerca che si fa in laboratorio con le provette, invece a un farmaco che sia efficace occorrono sempre anni, tant'è vero che io credo i ricercatori stessi dopo mettano in guardia dai facili entusiasmi. Mettere a punto il farmaco è sempre molto più difficile e farlo funzionare anche, quindi è chiaro che accogliamo sempre con piacere e ottimismo queste notizie, questo aumento della conoscenza. Prima però di avere delle ricadute pratiche occorre aspettare. Ecco, nel frattempo, in attesa, possiamo difenderci dal raffreddore con igiene, buona educazione e buon senso: lavarsi le mani, non starnutire in faccia al nostro collega, vestirsi in modo adeguato, arieggiare i locali, professore. Direi di sì, il problema è che soprattutto i raffreddati dovrebbero evitare di contagiare gli altri. Quello che possono fare quelli che vengono a contatto con una persona che invece ha il raffreddore, appunto, non dico stare a distanza di un metro e mezzo quando questi starnutiscono, ma almeno lavarsi le mani una volta che certo, è avuto il contatto. Eccoci dunque alla conclusione, come facciamo spesso, parlando di cinema, anche in qualche modo invitandoci a seguire le novità nelle sale. Bene, Festival Internazionale di Roma si è concluso con la vittoria del belga Kill Me Please per la giuria e del danese In a Better World per il pubblico. Migliore attore Tony Servillo per Una vita tranquilla. Marta Cagnola lo ha intervistato a Roma. A me interessava proprio alla lettura della sceneggiatura la possibilità di raccontare due personaggi in uno. Cioè, un personaggio che ha all'inizio tutto l'aspetto, il clima, il comportamento di un uomo realizzato in un universo borghese, piccolo borghese, se vuoi anche con lo stereotipo del cuoco che promuove la cucina italiana all'estero, con questa comunità anche un pochino triste di questo paesino ai limiti, anonimo di una foresta intorno tra Wiesbaden e Francoforte, e sotto questa divisa da cuoco in realtà si nasconde un killer spietato che ha cercato di rifarsi una vita. E di mi piaceva molto l'idea che un killer fosse raccontato nella dimensione di allerta per un terrore continuo, nella sua dimensione di continuo spavento per essere scoperto, per essere riidentificato nella sua vera natura, per la paura di perdere tutto quello che in 15 anni fuggendo all'estero e nascondendosi si era creato, per la paura di fare i conti con un passato che torna con uno dei, secondo me, molto belli snodi della sceneggiatura sotto le sembianze di un figlio che è arruolato nelle fila di quella criminalità organizzata di cui lui stesso fa parte, un figlio che aveva lasciato in Italia, ma ne ha un altro invece biondo, avuto da una donna bella che ama, è riamato da lei in Germania, insomma, quindi si trova quest'uomo anche a dividere un sentimento tra due figli, uno che rappresenta un'opportunità per il futuro, uno che rappresenta il passato ma che è lo stesso amato. Insomma, mi è sembrato di trovarmi di fronte a un personaggio, a un copione, a una sceneggiatura molto affascinante per un'interpretazione. La difficoltà di girare in due lingue, anzi tre, italiano, tedesco e anche napoletano? La difficoltà maggiore è stata recitare in tedesco. Io raccontavo stamattina che ho avuto dei momenti di scoraggiamento, consigliato con una battuta a Cupellini di chiamare Ganz, che è un attore che ammiro profondamente e che ha dato prova di saper recitare benissimo anche in italiano. E poi invece la determinazione, lo studio, una bravissima insegnante, la quotidianità hanno fatto sì che si potesse attraverso tre lingue raccontare le tane, che sono le lingue stesse in cui si va a nascondere questo personaggio braccato, perché lui attraverso le lingue offre un'immagine di sé che allontana quella vera che lui tende a nascondere. E poi sono anche lingue, in tedesco parla nei momenti di intimità con la moglie tedesca, in napoletano nei momenti di odio, di frizione o di affetto con il figlio napoletano, in italiano parla, se vuoi, con i clienti a cui, del suo ristorante, a cui offre l'immagine pacciosa e rassicurante di quello che fa i maccheroni, magari li fa col cinghiale, ma insomma fa i maccheroni, ecco. Quindi affascinante, cioè, è un film in cui ho l'occasione di recitare con la mia faccia, la barba è la mia, però invece di nascondermi dietro le lingue. Bene, con questo siamo davvero alla conclusione, non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana, un saluto dunque da parte mia, da Pietro Lacorte questa mattina in regia, e vi lascio naturalmente a GR24 e a tutti i programmi della nostra emittente. Un saluto.